questa è una vera e propria pandemia da azzardo, nel senso che siamo arrivati a cifre veramente importanti. Io faccio sempre questo esempio per far capire alle persone di cosa stiamo parlando. In azzardo nel 2024 sono stati spesi 157 miliardi di euro, in sanità 138. La spesa in azzardo ha superato la spesa sanitaria in Italia. Quindi questo credo che sia un indice che faccia capire quanto largo è il fenomeno. Dai dati emersi, il gioco online ha ormai superato quello fisico e la spesa digitale pro capite è più che raddoppiata, passando da 770 euro nel 2024 a 1880 euro nel 2025. Come mai la gente inizia a scommettere, a giocare d'azzardo? Perché ormai viene vissuta come qualcosa di quotidiano e non pericoloso. Cioè, 20 anni di informazione modificata, no? La ricordo. Penso a 25-30 anni fa, chi giocava d'azzardo veniva visto quasi come dire, una persona da evitare, no? O quello gioca d'azzardo, azzardo uguale pericolo. Oggi invece è assolutamente nella quotidianità di tutti noi, no? Cioè, se pensiamo soltanto un classico percorso casa-lavoro, casa-scuola, quante opportunità di giocare d'azzardo troviamo lungo il nostro percorso quotidiano? 3-4? Senza contare al fatto che abbiamo in tasca uno smartphone che ci permette di giocare d'azzardo come e quando vogliamo, in qualsiasi contesto, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo sdoganamento, lo definisco in questi termini, porta a pensare che l'azzardo sia un'opportunità e a togliere quella parte che invece dovrebbe essere fondamentale per insito nell'azzardo, cioè l'azzardo porta con sé il pericolo della patologia, del fatto di diventare dipendenti, il ti piace vincere facile, il fatto che vengano promosse sui quotidiani, anche questa mattina sul Resto del Carlino c'è una vincita di 5 milioni di euro a Senigallia, però non c'è quanti ne sono stati persi in quella ricevitoria dei soldi, quindi noi vediamo solo la parte bella, non vediamo mai la parte brutta, che è quella della patologia, di intere famiglie rovinate dal gioco d'azzardo, di 157 miliardi spesi all'anno. E dunque, secondo lei, chi è oggi il giocatore tipo che scommette, un identikit più o meno? È difficile oggi. In realtà cambia molto da gioco d'azzardo a gioco d'azzardo, nel senso che, ad esempio, abbiamo, che ne so, le scommesse sportive sono molto diffuse tra i ragazzi giovani, quindi chi scommette sul calcio, eventi sportivi, sono mediamente ragazzini, dai 13, anche se non potrebbero, lo fanno lo stesso, dai 13 ai 25 anni è il grosso, sta lì dentro, insomma. Mentre invece, se andiamo su le slot machines o i casino online, si alza l'età media. Se andiamo sui gratta e vinci cambia il genere, quindi sono più donne a giocare al gratta e vinci che non gli uomini. Diciamo che l'identikit del giocatore oggi è veramente difficile, perché ormai gioca tutta una nuova generazione, sta cominciando ad approcciare al gioco d'azzardo. Cioè, 3.000 euro ad abitante sono più di uno stipendio, quasi due stipendi medi italiani, no? All'anno su ognuno di noi, ma considerando che parliamo di tutti i cittadini residenti, quindi dalla culla all'RSA, no? Quindi qualcuno gioca, anche quelli che non vengono giocati da chi non si approccia all'azzardo. E dunque, visto che si tratta di un fenomeno talmente radicato nella società odierna, negli spazi, nelle crepe, è ovvio che si infiltra la criminalità organizzata. Quindi le volevo chiedere quanto e come pesa il ruolo della criminalità organizzata sulla diffusione del gioco d'azzardo. La Commissione Nazionale Antimafia nel novembre scorso, se non vado errato, ha dichiarato una cosa molto importante, il fatto che l'azzardo legale e illegale è oggi la seconda fonte d'entrata delle mafie in Italia. Dopo il traffico di stupefacenti arriva il gioco d'azzardo. La mafia infiltra il gioco legale, lo utilizza per il riciclaggio di denaro sporco, perché è un canale molto facile da utilizzare sotto questo punto di vista. Ci sono dei giochi che sono estremamente facili da utilizzare per il riciclaggio di denaro, soprattutto sui giochi online, e però fa anche le classiche operazioni invece con intimidazioni, e quindi modifico il mercato in modo illegale. A fianco a questo c'è il mercato dell'illegale. Qui mi permetto di fare una considerazione, perché la teoria delle dogane e dei monopoli dice una cosa secondo me non vera, che è quella dell'anelasticità della domanda in Italia di gioco d'azzardo. Cioè, tutta questa diffusione dell'azzardo si basa sul fatto che secondo la DM, se non ci fosse l'azzardo legale, tutti andrebbero a giocare illegalmente. Non è assolutamente vero, lo abbiamo visto con le chiusure alla pandemia da Covid-19, no? Cioè, noi costruiamo nella parte legale del gioco persone che sono dipendenti, come dire, dipendenti da patologia, che poi quando smettono di poter giocare nella parte legale perché servono i soldi, okay, si buttano sull'illegale, dove si può giocare anche a leva perché appunto prestano soldi a strozzo e via dicendo.